Atti degli Apostoli. Il libro precedente l'ho dedicato, o Teofilo, ad esporre tutto ciò che Gesù ha operato e insegnato dall'inizio fino al giorno in cui, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, fu assunto in cielo. È a questi stessi apostoli che si era mostrato vivo dopo la sua passione, con molte prove convincenti. Durante 40 giorni era apparso loro e aveva parlato delle cose del regno di Dio. Stando con essi a tavola, diede loro ordine di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di aspettare la promessa del Padre, che, disse, avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo di qui a non molti giorni. I convenuti lo interrogavano, dicendo, Signore, è questo il tempo in cui tu intendi restituire la potenza regale ad Israele? Egli rispose loro, non sta a voi il conoscere i tempi e le circostanze che il Padre ha determinato di propria autorità, ma lo Spirito Santo verrà su di voi e riceverete da Lui la forza per essermi testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, la Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi lo stavano guardando, fu levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Stavano con lo sguardo fisso verso il cielo mentre egli se ne andava. Ed ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro dicendo, «Uomini di Galilea, perché ve ne state guardando verso il cielo? Questo Gesù che è stato assunto di mezzo a voi verso il cielo verrà così, in quel modo come lo avete visto andarsene in cielo». Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto, che si trova vicino a Gerusalemme quanto il cammino di un sabato. Entrate in città, salirono nel locale del piano superiore dove abitavano. Vi erano Pietro, Giovanni, Giacomo ed Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti costoro attendevano costantemente con un cuor solo alla preghiera, con le donne e Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. In quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli riuniti insieme in circa 120 persone, disse: Fratelli, era necessario che si adempisse la parola della Scrittura, predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda, il quale si fece guida di coloro che catturarono Gesù, dal momento che egli era stato annoverato tra noi e ricevette la sorte di questo ministero. Costui dunque si comprò un campo con il prezzo dell'ingiustizia e precipitando si spaccò in mezzo e si sparsero tutte le sue viscere. Ciò fu noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, cosicché quel campo fu chiamato nel dialetto loro Acheldama, ossia campo del sangue. È infatti scritto nel libro dei Salmi: divenga la dimora di lui deserta e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio di lui lo prenda un altro. Occorre dunque che uno tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo in cui dimorò tra noi il Signore Gesù, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu di tra noi assunto al cielo, divenga testimonio con noi della sua risurrezione. Ne furono proposti due: Giuseppe, chiamato Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia, e pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quello che hai scelto tra questi due per prendere il posto di questo ministero e apostolato da cui prevaricò Giuda per andare nel luogo suo. E gettarono le sorti per essi, e la sorte cadde su Mattia, che fu aggregato agli 11 apostoli. Il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine.

avessimo fatto camminare quest'uomo. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato davanti a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi avete rinnegato il santo e il giusto, avete chiesto che vi fosse fatta grazia di un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e noi ne siamo testimoni. È per aver avuto fede in Lui che quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato risanato in virtù del suo nome. Sì, la fede, che è già suo dono, ha dato a costui la piena guarigione di fronte a tutti voi. Pertanto, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come anche i vostri capi, ma Dio ha così adempiuto ciò che egli aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, ossia che il suo Cristo avrebbe sofferto. Pentitevi dunque e convertitevi, perché siano cancellati i vostri peccati, cosicché venga il tempo del refrigerio da parte del Signore ed egli mandi quel Gesù che è stato costituito vostro Messia. È necessario che egli stia in cielo fino al momento della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dai tempi antichi per bocca dei suoi santi profeti. Mosè disse: «Il Signore Dio vostro vi susciterà di tra i vostri fratelli un profeta come me. Lo ascolterete in tutto ciò che vi dirà. E chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà sterminato di mezzo al popolo». E tutti i profeti, da Samuele in poi, tutti quanti hanno parlato, hanno anche preannunciato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio ha concluso con i vostri padri, quando disse ad Abramo: «Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra». A voi per primi Dio, risuscitando il suo servitore, lo ha inviato a benedirvi, per distogliere ciascuno dalle vostre malvagità. Mentre essi parlavano al popolo, sopravvennero i sacerdoti, il comandante del tempio e i sadducei, non potendo tollerare che essi insegnassero al popolo e annunciassero in Gesù la risurrezione dei morti. Misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano ascoltato la parola credettero, e il numero dei fedeli, contando solo gli uomini, divenne di circa 5.000. Il giorno seguente, i capi dei giudei, gli anziani e gli scribi si riunirono in Gerusalemme con il sommo sacerdote Anna, con Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano alle famiglie dei sommi sacerdoti. Fecero comparire gli apostoli e si misero a interrogarli: «In virtù di quale forza e in nome di chi voi avete fatto ciò?» Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, noi oggi siamo interrogati in giudizio per aver fatto del bene a un povero malato. Ci si chiede in virtù di chi costui è stato risanato. Sappiatelo tutti voi e tutto il popolo di Israele. È nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso, ma che Dio ha risuscitato dai morti. È in virtù di questo nome che costui se ne sta davanti a voi, perfettamente sano. Egli è la pietra respinta da voi costruttori, che è divenuta la testata d'angolo, e non c'è in alcun altro la salvezza. Nessun altro nome, infatti, sotto il cielo è stato concesso agli uomini, per il quale siamo destinati a salvarci». Vedendo il coraggio di Pietro e di Giovanni e comprendendo d'altra parte che si trattava di uomini illetterati e semplici, erano sbalorditi e si rendevano conto che essi erano coloro che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non avevano nulla da replicare. Ordinarono dunque che li conducessero fuori dal Sinedrio e si misero a consultarsi tra loro

«È per tanto che avete venduto il campo?» Ella rispose, «Sì, per questo prezzo». Pietro le disse, «Perché vi siete accordati per tentare lo spirito del Signore? Ecco alla porta i passi di coloro che hanno sepolto tuo marito. Porteranno via anche te». Ella gli cadde improvvisamente ai piedi, morta. Quei giovani, entrati, la trovarono morta e la portarono a seppellire vicino a suo marito. Un grande spavento si diffuse per tutta la chiesa e in tutti coloro che venivano a conoscere queste cose. Per mano degli apostoli avvenivano molti miracoli e prodigi in mezzo al popolo. Tutti stavano insieme, uniti e concordi, nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava unirsi ad essi, ma il popolo ne faceva grandi lodi. Sempre più andava aumentando il numero dei credenti nel Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che i malati venivano portati nelle piazze e posti sui lettini e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra ricoprisse qualcuno di loro. La folla confluiva anche dalle città attorno a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, i quali tutti venivano guariti. Allora si mossero il sommo sacerdote e tutti i suoi aderenti, cioè la setta dei Sadducei. Pieni di gelosia, misero le mani sugli apostoli e li chiusero nel carcere pubblico. Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse: «Andate e mettetevi nel tempio a predicare al popolo tutta questa dottrina di vita». Udito ciò, entrarono di buon mattino nel tempio e si posero ad insegnare. Intanto sopraggiunsero il sommo sacerdote e i suoi aderenti e convocarono il sinedrio e tutto il senato dei figli di Israele. Quindi mandarono alla prigione a prelevarli, ma questi, giunti colà, non li trovarono nella prigione. Tornati indietro, riferirono ciò dicendo: «Abbiamo trovata la prigione chiusa con ogni cautela e le guardie in piedi davanti alle porte. Ma quando le abbiamo aperte, non abbiamo trovato dentro nessuno». Udite queste parole, il comandante del tempio e i sommi sacerdoti si domandavano turbati come ciò sarebbe andato a finire. Ma qualcuno, sopraggiunto in quel momento, annunciò loro: «Ecco, gli uomini che avete messo in prigione stanno nel tempio e istruiscono il popolo». Allora il comandante del tempio uscì con le guardie e li ricondusse, non però con la forza, poiché avevano paura di essere lapidati dal popolo. Condottili nel sinedrio, li posero in mezzo e il sommo sacerdote li interrogò: «Non vi abbiamo forse formalmente ordinato di non insegnare più in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Ma Pietro e gli apostoli risposero: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso sospendendolo ad un legno. Dio lo ha innalzato con la sua destra come capo supremo e salvatore, per concedere a Israele la conversione e la remissione dei peccati. Di queste cose siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che gli obbediscono». Ma quelli, udendo queste cose, si esasperarono e volevano ucciderli. Allora si alzò nel sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, e richiese che quegli uomini fossero condotti fuori un momento. Poi disse loro: «Israeliti, riflettete bene su ciò che state per fare di questi uomini. Infatti, tempo fa venne fuori Teuda, che si spacciava per un personaggio straordinario, e gli andò dietro un gran numero di uomini, quasi 400. Ma quando fu ucciso, tutti i suoi aderenti furono dispersi e si ridussero a nulla. Dopo di lui saltò fuori Giuda il Galileo nei giorni del censimento e trascinò il popolo dietro di sé, ma anche egli finì male e tutti i suoi aderenti furono dispersi. Or dunque io vi dico, non impicciatevi di questi uomini e lasciateli fare, perché se questo è un progetto o un'impresa messa su dagli uomini, sarà distrutta, ma se viene da Dio, non potrete annientarli. Guardatevi dal farvi trovare in lotta con Dio. Si attennero al consiglio, e fatti chiamare gli apostoli, li fecero percuotere e comandarono loro di non parlare più nel nome di Gesù. Quindi li rilasciarono. Essi se ne andarono via dal Sinedrio, lieti perché erano stati fatti degni di subire oltraggi per il nome. E ogni giorno, nel tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di annunciare la buona novella del Cristo Gesù. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, gli ellenisti incominciarono a mormorare contro gli ebrei, perché nella distribuzione quotidiana le loro vedove venivano trascurate. Allora i dodici, radunata l'assemblea dei discepoli, dissero: «Non sta bene che noi trascuriamo la parola di Dio per servire alle mense. Cercate piuttosto in mezzo a voi, o fratelli, sette uomini di buona fama, pieni di spirito e di sapienza, che noi preporremo a questo servizio. Così noi ci dedicheremo pienamente alla preghiera e al ministero della parola». Questa proposta piacque a tutta l'assemblea e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli in Gerusalemme. Anche gran folla di sacerdoti aderiva alla fede. Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e miracoli in mezzo al popolo. Si levarono allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia e d'Asia, e si misero a disputare con Stefano. Ma non potevano tener testa alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora misero su degli individui che dissero: «Abbiamo udito costui mentre pronunciava parole blasfeme contro Mosè e contro Dio». Ed eccitarono il popolo, gli anziani e gli scribi. Gli si fecero addosso, lo presero con violenza e lo condussero al Sinedrio. Poi produssero falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non la smette di dire parole offensive contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dire che quel Gesù Nazareno distruggerà questo luogo e cambierà le leggi che ci ha tramandato Mosè». E guardando fisso verso di lui, tutti quelli che erano seduti nel Sinedrio videro il suo viso come il viso d'un angelo. Allora il sommo sacerdote domandò: «Le cose stanno davvero così?» Egli rispose: «Fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo mentre era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran. Egli disse: «Esci dalla tua terra, lascia la tua parentela e va nella regione che io ti mostrerò». Allora uscì dalla terra dei Caldei e pose dimora in Carran. Di là, dopo la morte di suo padre, Dio lo trasferì in questa regione nella quale ora voi abitate. E qui non gli diede in eredità neppure lo spazio da posarvi un piede, ma promise di darla in possesso a lui, alla sua discendenza dopo di lui, benché non avesse figli. Parlò dunque Dio così: «La sua discendenza dovrà soggiornare in terra straniera e la ridurranno in servitù e la maltratteranno per 400 anni. Ma il popolo di cui essi saranno schiavi io lo giudicherò», disse il Signore. «E dopo queste vicende usciranno e mi daranno culto in questo luogo». Poi gli diede il patto della circoncisione.

ha voluto che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni da Dio prescelti, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. Egli ci ha ordinato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti. A Lui tutti i profeti rendono questa testimonianza, che tutti coloro che credono in Lui ricevano nel suo nome la remissione dei peccati. Pietro non aveva ancora finito di dire queste parole che lo Spirito Santo discese su tutti quelli che ascoltavano la parola. I fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sui pagani si fosse avuta l'effusione del dono dello Spirito Santo. Infatti li udivano parlare in lingue e magnificare Dio. Allora Pietro disse: chi può impedire di battezzare con l'acqua costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora lo pregarono di fermarsi ancora alcuni giorni. Gli apostoli e i fratelli che abitavano in Giudea udirono che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Perciò, quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi gli fecero dei rimproveri. Gli dicevano: sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Pietro allora cominciò a raccontare le cose ad essi, punto per punto, dicendo: io me ne stavo pregando nella città di Giaffa, quando, rapito in estasi, vidi una visione. Qualcosa che scendeva dal cielo come una grande tovaglia calata per i quattro capi, che giunse fino a me. La guardai, la esaminai, e dentro vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili e volatili del cielo. Udii anche una voce che mi diceva: orsù, Pietro, uccidi e mangia. Ma io dissi: giammai, o Signore, poiché mai nulla di profano o di immondo è entrato nella mia bocca. Ma la voce mi disse una seconda volta dal cielo: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo impuro. Ciò si ripeté per tre volte. Poi tutto fu ritirato di nuovo in cielo. Ed ecco che subito tre uomini si presentarono alla casa in cui ci trovavamo, venuti con un messaggio per me da Cesarea. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitazione. Vennero con me anche questi sei fratelli, ed entrammo nella casa di quell'uomo. Egli ci narrò come aveva visto un angelo comparire nella sua casa e dirgli: manda dei messi a Giaffa e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli ti dirà le parole in cui troverai salvezza tu e tutta la tua casa. Mentre io cominciavo a parlare, lo Spirito Santo scese su di loro, come era sceso su di noi all'inizio. Mi ricordai allora della parola del Signore, quando disse: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato ad essi lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Udito questo racconto, si acquietarono e glorificarono Dio, dicendo: dunque, anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano per avere la vita. Frattanto, quelli che erano stati dispersi per la persecuzione sopraggiunta al tempo di Stefano arrivarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, ma non predicando la parola se non a giudei. V'erano alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, i quali, giunti ad Antiochia, predicarono anche ai greci, annunziando loro la buona novella del Signore Gesù. La mano del Signore era con essi, e un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia riguardante costoro arrivò agli orecchi dei membri della chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando giunse e vide l'effetto della grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a rimanere con animo fermo, fedeli al Signore. Egli era infatti un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Così una folla numerosa aderì al Signore. Egli poi partì per Tarso a cercare Saulo e, trovatolo, lo condusse ad Antiochia. Per un anno intero essi lavorarono insieme in quella chiesa, istruendo una gran folla. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono nominati cristiani. In quei giorni, alcuni profeti discesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di essi, di nome Agabo, si alzò per annunciare, per impulso dello Spirito, che vi sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra, quella che poi avvenne sotto Claudio. Allora i discepoli, ciascuno secondo le sue possibilità, decisero di inviare aiuti per i fratelli che abitavano in Giudea. Così fecero, mandando i soccorsi agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Verso quel tempo il re Erode prese a maltrattare alcuni membri della chiesa. Fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, mandò ad arrestare anche Pietro. Si era nei giorni degli azimi. Catturato, lo pose in carcere, dandolo a sorvegliare a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, con l'intenzione di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro era tenuto prigioniero, la chiesa rivolgeva senza sosta preghiere a Dio per lui. La notte precedente il giorno fissato da Erode per farlo comparire davanti al popolo, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, mentre le sentinelle davanti alla porta facevano la guardia alla prigione. Ed ecco un angelo del Signore gli si avvicinò, e una luce risplendette nella cella. L'angelo scosse Pietro ad un fianco e lo svegliò dicendogli: «Alzati, presto!» Le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». Così fece. Poi gli dice: «Avvolgiti nel mantello e seguimi». E uscito lo seguiva, ma non si rendeva conto che era vero ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo. Gli sembrava piuttosto di vedere una visione. Oltrepassato il primo posto di guardia e il secondo, vennero alla porta di ferro che metteva in città. Essa si aprì da sola davanti a loro. Uscirono, si avviarono per una strada. Improvvisamente l'angelo si dileguò da lui. Allora Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora capisco davvero che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e ha reso vana l'attesa del popolo dei giudei». Dopo aver riflettuto, si diresse verso la casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove vi erano molti radunati e in preghiera. Picchiò ai battenti del portone e una serva, di nome Rode, s'accostò per sentire. Riconobbe la voce di Pietro, ma per la gioia non aprì il portone e corse dentro per annunciare che Pietro stava davanti al portone. Quelli le dissero: «Sei impazzita!» Ma lei continuava a sostenere che era così. E quelli dicevano: «È il suo angelo!» Intanto Pietro continuava a bussare. Aperto, videro che era lui e rimasero sbalorditi. Fatto loro segno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: «Comunicate questa notizia a Giacomo e ai fratelli». Poi uscì e andò in un altro luogo. Fattosi giorno, vi fu un gran subbuglio tra i soldati. Che ne era di Pietro? Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, interrogò le guardie e ordinò che fossero portate al supplizio. Poi, dalla Giudea, discese a Cesarea, dove si trattenne. Erode aveva un grave dissidio con quelli di Tiro e di Sidone, ma essi d'accordo si presentarono a lui e, avendo guadagnato alla loro causa Blasto, ciambellano del re, sollecitavano la pace, poiché il loro paese era rifornito di viveri dal paese del re. Nel giorno stabilito, Erode, rivestito degli abiti regali e seduto in trono, tenne loro un'allocuzione. Il popolo gridava: «Voce di Dio e non di un uomo!» Ma all'istante un angelo del Signore lo percosse, perché non aveva dato gloria a Dio, e, divorato dai vermi, spirò. Intanto la parola di Dio cresceva e si moltiplicava. Barnaba e Saulo ritornarono da Gerusalemme, avendo compiuto la loro missione, e portarono con sé Giovanni, soprannominato Marco. Oh.

e gli esposero con maggiore esattezza la via di Dio. E poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Il suo arrivo e la sua presenza furono di grande giovamento a coloro che avevano creduto per opera della grazia. Infatti egli confutava vigorosamente i giudei in pubblico, dimostrando attraverso le scritture che Gesù era il Cristo. Mentre Apollo si trovava a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni dell'altipiano, arrivò ad Efeso, dove trovò alcuni discepoli ai quali domandò: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete abbracciato la fede?» Essi gli risposero: «Non abbiamo neppure sentito dire che vi sia uno Spirito Santo». Egli allora domandò: «Con che battesimo dunque siete stati battezzati?» Quelli risposero: «Col battesimo di Giovanni». Paolo disse allora: «Giovanni battezzò con un battesimo di penitenza, dicendo al popolo che occorreva credere a colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udite queste parole, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Poi Paolo impose loro le mani. Lo Spirito Santo venne su di essi e cominciarono a parlare le lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 persone. Paolo entrò nella sinagoga e vi parlava con franchezza per 3 mesi, tenendovi discussioni e cercando di persuadere su quello che riguarda il regno di Dio. Ma poiché alcuni si indurivano nell'incredulità e sparlavano contro la via di fronte all'assemblea, si staccò da loro, separò i discepoli e continuò a tenere le sue discussioni ogni giorno nella scuola di Tiranno. Così durarono le cose per 2 anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, sia giudei che greci, ascoltarono la parola del Signore. E Dio operava prodigi davvero straordinari per le mani di Paolo, fino al punto che si applicavano su malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui, e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni fuggivano. Anche alcuni esorcisti ambulanti giudei si provarono a invocare su coloro che avevano spiriti maligni il nome del Signore Gesù, dicendo: «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo va predicando». Tra quelli che facevano così vi erano i 7 figli di un certo Sceva, sommo sacerdote giudeo. Ma in risposta lo spirito malvagio disse loro: «Gesù lo conosco e Paolo so bene chi è, ma voi chi siete?» E scagliatosi contro di essi, quell'uomo in cui vi era lo spirito malvagio li sopraffece e li malmenò talmente che nudi e feriti se ne dovettero fuggire da quella casa. Ciò fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano Efeso. Essi furono presi da timore e il nome del Signore Gesù veniva magnificato. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano riconoscendo e manifestando pubblicamente le loro pratiche malvagie. Non pochi di coloro che avevano esercitato le arti magiche ammucchiavano i loro libri e li bruciavano in presenza di tutti. L'ammontare del loro prezzo fu calcolato 50.000 pezzi d'argento. Così la parola del Signore cresceva e si affermava potentemente. Dopo questi fatti, Paolo si pose in animo di andare a Gerusalemme passando per la Macedonia e per l'Acaia, e diceva: «Dopo essere stato là, devo vedere anche Roma». Così inviò in Macedonia 2 dei suoi collaboratori, Timoteo ed Erasto. Egli rimase ancora un po' di tempo in Asia. Fu verso quel tempo che successe un tumulto assai grave a proposito della via. C'era infatti un argentiere di nome Demetrio che faceva dei tempietti di Diana in argento e procurava agli artigiani non piccoli guadagni. Egli radunò costoro insieme con quanti lavoravano intorno a oggetti del genere e disse: «Amici, voi sapete che il nostro benessere dipende da questa industria. Ora voi vedete e sentite che non soltanto in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, questo Paolo, con i suoi ragionamenti, ha traviato moltissima gente, dicendo che non sono dei quelli che escono dalla mano dell'uomo. E non soltanto la nostra attività minaccia di cadere in discredito, ma anche il tempio della grande dea Artemide rischia di perdere ogni prestigio. E colei che è onorata da tutta l'Asia e il mondo intero finirà per essere spogliata di tutta la sua grandezza. Udite queste parole, si riempirono di sdegno e gridavano: «Grande è l'Artemide degli Efesini!» La città fu tutta in subbuglio. Si precipitarono in massa verso il teatro, trascinando con sé Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di viaggio di Paolo. Paolo voleva introdursi anch'egli in mezzo all'assemblea popolare, ma i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni degli asiarchi, che erano suoi amici, mandarono a pregarlo di non esporsi nel teatro. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, e l'assemblea era tanto confusa che i più non sapevano per che cosa si erano radunati. Alcuni della folla indussero a intervenire Alessandro, che i giudei avevano spinto avanti. Egli, fatto cenno con la mano, voleva pronunciare una difesa davanti al popolo. Ma avendo riconosciuto che era un giudeo, tutti si misero a gridare a una sola voce per quasi 2 ore: «Grande è l'Artemide degli Efesini!» Riuscito a calmare la folla, il cancelliere disse: «Cittadini di Efeso, chi è mai quell'uomo che non sappia che la città degli Efesini è la custode della grande Artemide e del suo simulacro caduto dal cielo? Poiché dunque queste cose sono inconfutabili, bisogna che voi stiate calmi e non facciate nulla di sconsiderato. Ora voi avete condotto qui questi uomini che non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno accuse a carico di qualcuno, per questo si fanno le udienze nel foro e ci stanno i proconsoli. Presenti dunque ciascuno le sue accuse. Se poi avete qualche altra richiesta, vi si darà soddisfazione in un'assemblea regolare. Infatti noi corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per ciò che oggi è avvenuto, non essendovi alcun motivo con cui possiamo dar ragione di questo comizio». E con queste parole sciolse l'assemblea. Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli. Rivolse loro un'esortazione, poi li salutò e partì per andare in Macedonia. Percorse quella regione facendo molti discorsi di esortazione e giunse in Grecia. Passati 3 mesi, ci fu un complotto da parte dei giudei mentre stava per imbarcarsi per la Siria, che lo decise a ritornare passando per la Macedonia. Lo accompagnarono fino in Asia Sopatro, figlio di Pirro, di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo, Tichico e Trofimo, oriundi dell'Asia. Costoro ci precedettero e ci aspettarono a Troade. Noi invece facemmo vela da Filippi dopo i giorni degli azimi e arrivammo presso di loro a Troade in 5 giorni, e là rimanemmo 7 giorni. Il primo giorno della settimana eravamo radunati per spezzare il pane. Paolo, che doveva partire il giorno dopo, discorreva con essi e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Vi erano molte lampade al piano superiore dove eravamo radunati. Ora un ragazzo di nome Eutico, che se ne stava seduto sulla finestra, mentre Paolo continuava a parlare senza sosta, venne preso da una profonda sonnolenza e alla fine, vinto dal sonno, cadde dal terzo piano in terra e fu raccolto morto. Allora Paolo scese, si buttò su di lui e, abbracciandolo, disse: «Non turbatevi, perché la sua anima è in lui». Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò, e dopo aver parlato ancora a lungo fino all'alba, partì. Intanto ricondussero il ragazzo vivo e ne provarono una indicibile consolazione. Noi, intanto, che già c'eravamo imbarcati, facemmo vela alla volta di Asso, dove avremmo dovuto riprendere Paolo. Così, infatti, ci aveva ordinato, volendo egli fare il viaggio a piedi. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo a bordo con noi e arrivammo a Mitilene. Di là salpammo e l'indomani giungemmo di fronte a Chio. Il giorno dopo costeggiammo Samo e il seguente fummo a Mileto. Paolo, infatti, aveva ritenuto opportuno navigare al largo di Efeso perché non gli capitasse di doversi attardare in Asia.

dovette essere portato di peso dai soldati per la violenza della folla. Infatti la moltitudine del popolo gli andava dietro gridando «Ammazzalo!». Mentre stava per essere condotto dentro la caserma, Paolo disse al tribuno «Mi è lecito dirti una cosa?». Quegli rispose «Sai il greco? Non sei dunque tu l'egiziano che giorni fa ha provocato una sommossa e ha condotto nel deserto 4.000 sicari?». Paolo disse «Io sono un giudeo, cittadino di Tarso, in Cilicia, città non senza importanza. Ora ti prego, permettimi di parlare al popolo». Ottenuto il permesso, Paolo, stando sui gradini, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica, dicendo: «Fratelli e padri, ascoltate quanto ora io vi espongo in mia difesa». Udendo che parlava loro in ebraico, il silenzio si fece ancora più grande. Egli continuò: «Io sono un giudeo, nato a Tarso, in Cilicia, ma educato in questa città, istruito ai piedi di Gamaliele, nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come lo siete voi tutti oggi. Io ho perseguitato a morte questa via, mettendo in catene e gettando in prigione uomini e donne, come me ne fa testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il consiglio degli anziani. Da essi avevo anzi ricevuto lettere per i fratelli di Damasco e stavo andandovi per condurre incatenati a Gerusalemme anche quelli che si trovavano là, perché vi fossero puniti. Or mentre io ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso, una gran luce venuta dal cielo mi sfolgorò tutto intorno. Io caddi a terra e udii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: Chi sei, o Signore? Mi disse: Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Quelli che mi accompagnavano videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io ripresi: Che debbo fare, Signore? Il Signore mi disse: Alzati, va a Damasco, e là ti sarà detto tutto ciò che è stabilito che tu faccia. Ma poiché non potevo più vedere per lo splendore di quella luce, fui condotto per mano dai miei compagni di viaggio e giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo devoto e osservante della legge, stimato da tutti i giudei che abitavano colà, venne a trovarmi e, standomi accanto, mi disse: Saulo, fratello, torna a vedere. E io, nella stessa ora, riuscii a vederlo. Egli disse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una parola dalla sua bocca, poiché tu renderai testimonianza a suo favore presso tutti gli uomini di ciò che hai visto e udito. Ed ora che cosa aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e purificati dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Tornato a Gerusalemme, mentre stavo pregando nel tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva: Presto, affrettati ad uscire da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza riguardo a me. Io replicai: Signore, costoro sanno che io mettevo in prigione e percuotevo di sinagoga in sinagoga quelli che credevano in te, e quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero là presente ed ero d'accordo con coloro che lo uccidevano e ne custodivo le vesti. Ma egli mi disse: Va, perché io ti manderò lontano, tra i pagani. Fino a queste parole lo avevano ascoltato, ma qui cominciarono a gridare: Via dal mondo costui, non ha il diritto di vivere. Gridavano, si strappavano le vesti e gettavano polvere in aria. Allora il tribuno fece condurre Paolo nella caserma, ordinando di interrogarlo ricorrendo alla flagellazione, per sapere per quale motivo gli gridassero contro a quel modo. Ma quando l'ebbero legato con le cinghie, Paolo disse al centurione presente: Vi è lecito flagellare un cittadino romano e per di più non ancora giudicato? Udito ciò, il centurione si avvicinò al tribuno per avvertirlo, dicendo: Che cosa stai per fare? Quest'uomo è romano. Allora, avvicinatosi, il tribuno gli disse: Dimmi, tu sei romano? Egli rispose: Sì. Io, riprese il tribuno, Ho acquistato questa cittadinanza a caro prezzo. E Paolo, io invece vi sono nato. Subito si allontanarono da lui quelli che stavano per interrogarlo. Anche il tribuno si intimorì, avendo saputo che era romano, poiché lo aveva fatto legare. Il giorno dopo, volendo sapere con certezza di che cosa i giudei lo accusavano, gli tolse le catene e ordinò che si radunassero i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio. Poi fece condurre Paolo e lo presentò a loro. Con lo sguardo fisso al sinedrio, Paolo disse: «Fratelli, io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza fino a questo giorno. Ma il sommo sacerdote Anania diede ordine agli assistenti di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: «Dio sta per percuotere te, muro imbiancato. Tu sei assiso per giudicarmi secondo la legge e violi la legge ordinando di percuotermi». Ma gli assistenti dissero: «Tu insulti il sommo sacerdote di Dio?» Paolo rispose: «Non sapevo, fratelli, che è sommo sacerdote. È scritto, infatti, non parlerai male di un capo del tuo popolo». Paolo sapeva che una parte dell'assemblea era composta di sadducei e un'altra di farisei, e gridò nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. Io sono sotto giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena dette queste parole, scoppiò un tafferuglio tra farisei e sadducei, e l'assemblea si divise. I sadducei, infatti, dicono che non c'è risurrezione né angelo né spirito, mentre i farisei ammettono tutte queste cose. Vi fu un gran gridare. Alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono a battagliare, dicendo: «Non troviamo alcun male in quest'uomo. E se uno spirito gli avesse parlato, oppure un angelo?» Aggravandosi il tumulto, il tribuno, temendo che Paolo fosse da quelli fatto a pezzi, comandò alla truppa di scendere e portarlo via di mezzo a loro e ricondurlo in caserma. La notte seguente il Signore gli si avvicinò e gli disse: «Coraggio, come hai reso testimonianza alla mia causa in Gerusalemme, così devi testimoniare anche a Roma». Fattosi giorno, i giudei fecero una congiura e si obbligarono con giuramento a non mangiare né bere fino a che non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 quelli che avevano fatto questa congiura. Essi si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero: «Con giuramento ci siamo obbligati a non prendere più alcun cibo finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque voi comparite di fronte al tribuno col sinedrio affinché lo conduca da voi, come per voler esaminare più accuratamente il suo caso, e noi, prima che si avvicini, ci teniamo pronti ad ucciderlo». Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere dell'insidia e, andato alla caserma, vi entrò e ne diede notizia a Paolo. Paolo, fatto chiamare uno dei centurioni, disse: «Conduci questo giovane dal tribuno, perché ha qualcosa da comunicargli». Quegli lo prese e lo condusse dal tribuno e disse: «Il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e ha pregato che questo giovane ti fosse condotto perché ha qualcosa da dirti». Presolo per mano, il tribuno lo condusse in disparte e lo interrogò: «Che cos'hai da comunicarmi?» Egli disse che i giudei si erano accordati per domandargli che il giorno appresso conducesse Paolo nel sinedrio col pretesto di una interrogazione più accurata sul suo caso. «Tu dunque non fidarti di essi. Infatti più di 40 uomini dei loro gli tendono insidie e si sono obbligati con giuramento a non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso. Ora si tengono pronti, in attesa che tu dica di sì». Il tribuno congedò il giovane ordinandogli: «Non dire a nessuno che mi hai rivelato queste cose». Chiamati poi due dei centurioni, disse: «Preparatemi 200 soldati, perché vadano fino a Cesarea, e 70 cavalieri e 200 lancieri, pronti a partire 3 ore dopo il tramonto. Preparate anche delle cavalcature per farvi salire Paolo e condurlo in salvo presso il governatore Felice». Scrisse anche una lettera di questo tenore: «Claudio Lisia, a sua eccellenza il governatore Felice, salute. Quest'uomo era stato preso dai giudei. Stavano per ucciderlo quando sopraggiunsi con la truppa e lo liberai, avendo saputo che era cittadino romano.

e la lasciarono cadere. Mentre si aspettava che cominciasse a farsi giorno, Paolo esortava tutti a prender cibo, dicendo: «Oggi sono 14 giorni che state in attesa, digiuni, senza aver preso nulla. Perciò io vi esorto a prendere cibo. Ciò infatti è necessario per la vostra salute. Infatti non si perderà alcun capello del vostro capo». Dette queste cose, prese del pane, rese grazie a Dio in presenza di tutti e, spezzatolo, cominciò a mangiare. Allora tutti, fattisi coraggio, presero anch'essi del cibo. Eravamo in tutto nella nave 276 persone. Dopo aver mangiato a sazietà, alleggerirono la nave, gettando il frumento nel mare. Quando si fece giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma scorgevano un'insenatura con una spiaggia, e là volevano, se fosse stato possibile, spingere la nave. Staccarono le ancore tutt'intorno e le lasciarono andare a mare, allentando nello stesso tempo gli ormeggi dei timoni, e, alzato l'artimone al vento, tentavano di approdare alla spiaggia. Ma si imbatterono in un altifondo tra due correnti e fecero incagliare la nave. La prua, piantata nel fondo, rimaneva immobile e la poppa veniva sfasciata dalla violenza delle onde. I soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri perché qualcuno non sfuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, li impedì dall'attuare il loro proposito e comandò a quelli che erano in grado di nuotare di gettarsi per primi in mare e di raggiungere terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su qualche relitto della nave. E così tutti giunsero a terra incolumi. Scampati finalmente dal pericolo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci mostrarono una benevolenza non comune. Accesero un falò e ci raccolsero tutti intorno, poiché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. Paolo aveva raccolto una bracciata di legna e la stava buttando nel fuoco, quando una vipera, uscita fuori per il calore, gli si attaccò alla mano. Gli indigeni, come videro l'animale pendere dalla sua mano, si misero a dirsi l'un l'altro: «Certamente è un assassino quest'uomo, poiché, essendosi salvato dal mare, la vendetta divina non gli ha permesso di sopravvivere». Ma egli scosse la bestia sul fuoco e non ne risentì alcun male. Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'improvviso, ma dopo aver atteso a lungo e aver visto che non gli accadeva niente di straordinario, cambiato parere, cominciarono a dire che egli era un dio. In quei dintorni aveva i suoi poderi il primo dell'isola, di nome Publio. Egli ci accolse e ci ospitò cordialmente per 3 giorni. Ora il padre di Publio giaceva a letto con accessi di febbre e dissenteria. Paolo andò a visitarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. In seguito a questo fatto, anche gli altri dell'isola che avevano delle malattie incominciarono a venire da lui e venivano guariti. Essi ci colmarono di onori e, quando salpammo, ci provvidero del necessario. Dopo 3 mesi salpammo con una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola e portava per insegna i Dioscuri. Approdati a Siracusa, vi rimanemmo 3 giorni. Di là, costeggiando, giungemmo a Reggio. Dopo un giorno si levò il vento del sud e così in 2 giorni giungemmo a Pozzuoli. Ivi trovammo dei fratelli e avemmo la consolazione di rimanere con loro 7 giorni. E così arrivammo a Roma. Di là i fratelli, che avevano sentito delle nostre peripezie, ci vennero incontro fino al foro Appio e alle 3 taverne. Quando li vide, Paolo ringraziò Dio e prese coraggio. Entrati poi in Roma, fu permesso a Paolo di dimorare per conto suo con un soldato a guardia. 3 giorni dopo, egli convocò i principali fra i giudei. Quando si furono radunati, disse loro: «Io, o fratelli, pur non avendo fatto nulla contro il mio popolo o contro gli usi dei nostri padri, sono stato messo in catene a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Essi, dopo aver fatto un'inchiesta, volevano rilasciarmi, perché non c'era in me nulla che meritasse la morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fui costretto ad appellarmi a Cesare, non però come se avessi qualcosa da rimproverare al mio popolo. Per questo motivo io vi ho fatti chiamare per vedervi e parlarvi, poiché è a motivo della speranza di Israele che io porto questa catena. Ma essi gli dissero: noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera dalla Giudea riguardo a te, né alcuno dei fratelli è venuto a raccontarci o a dirci qualcosa di male sul tuo conto, ma riteniamo opportuno sentire da te ciò che pensi. Infatti, riguardo a questa setta, ci è noto che in ogni luogo trova opposizione. In un giorno prefissato, molti si recarono presso di lui nel suo alloggio. Nella sua esposizione, egli rendeva testimonianza del regno di Dio e cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Mosè e dai profeti, dal mattino fino alla sera. Alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, altri restavano increduli. Non riuscendo a mettersi d'accordo tra loro, si separarono, mentre Paolo diceva una sola parola: bene ha ragione lo Spirito Santo ha parlato ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: va da questo popolo e di: udrete con gli orecchi e non capirete, guarderete con gli occhi e non vedrete. Si è indurito infatti il cuore di questo popolo, e con gli orecchi hanno udito male e hanno chiuso i loro occhi, per non vedere con gli occhi né udire con gli orecchi e non comprendere con il cuore e convertirsi, e io non li guarisca. Sia noto dunque a voi che ai pagani è stata inviata questa salvezza di Dio, ed essi ascolteranno. Rimase 2 anni interi in un ambiente preso a pigione e riceveva tutti quelli che andavano a visitarlo, annunciando il Vangelo del Regno e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con piena libertà e senza ostacoli.